scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire. 400 colpi dentro al cuore, corse sul mare come due pistole, ma ora non corro più, non corro più. Cartoline erotiche nei bar, vecchi che giocavano a briscola. Potevo leggerti nell'anima, dietro le lenti nere dei Ray-Ban. Sì, dei tuoi Ray-Ban. Un tedesco suonava Wonderwall a un falò. Di notte lui giocava a far l'artista. Mentre tu sorridevi e non guardavi, no, mia dolce Venere di Insta. Perché sei stata l'estate migliore della mia vita, è la verità. Sembrava la storia infinita e forse era solo la felicità. E quanto siamo bravi a fingere di non provare sentimenti. E siamo felici come Pasqua, e sì, ma Pasqua è del 2020. E tu dicevi di amare la mia S, invece ora chissà che cosa pensi. Essere felici dura il tempo di un ballo fra Dustin e Nancy. Un tedesco suonava Wonderwall a un falò. Di notte lui giocava a far l'artista. Mentre tu sorridevi e non guardavi, no, mia dolce Venere di Insta. Perché sei stata l'estate migliore della mia vita, è la verità. Sembrava la storia infinita e forse era solo la felicità. I'm in a punk occhi di Peter Pan. Una poesia dentro il cesso di un bar. Una canzone che non finirà. Aspetta, aspetta, aspetta. Com'è che fa? Un tedesco suonava Wonderwall ad un falò. Col testo scritto sopra al fazzoletto. E siamo solo voi.